me l'anzuelo con mi mena topetro. Quando corso scondi tutti, tanto affacci non ci vedi. Quando dormi tutto bene, ti indica i piedi. Quando freddo modo facci, un anzulo di nemire. E' curioso, non mi tenti, entra a casa sempre gira. Si dice San Folle di origine salentine, ma i suoi difetti no, non hanno mai fine. Gli è rovinato il suo ultimo di villani. C'è cinca non ci crede, più apicuro sti cristiani. Si fotti la bottiga di assato l'uruguero, sopra la panca bocca lo bicchieri di lumiero. Si sposta sai la seggia con lo culo a terra spingi. Se li fotti ride scherza faccia sì tutti facci. Citti citti castarria lula uru, cuttu capeni e ti pizzica lu culo. C'è cinca credi a sta storia cinoni, non ti da conta uno con tante emozioni. Citti citti castarria lula uru, cuttu capeni e ti pizzica lu culo. C'è cinca credi a sta storia cinoni, non ti da conta uno con tante emozioni. Ti zuffa sopra la panza quando stai curcato, non ci ti facci respirare mai nisciu senza. Due cinque trova poi con lì cerchi sorti. Un turno ci cuperchi a tutti gli cristiani ingordi. E con Luca va tu piti spettu giocando alla rimesa. Un tonno cristiano cagliavi tra le tu la chiesa. Si mette l'intreccia tutta la coda. Tu puoi di tutti tu di nori, ai curiosa. Non si può supportare un lavoro a sbagliare. Sta carogna mentre incroci tutti dopo campari. Non voli di mangiare, non voli manco beni. Lo più vi festa solo quando mai ci ballari. E allora sto famo zumba porta all'aria gamba e panza. Quando trasi l'orecchia e niente altro più si pensa. La macchiato lo rimedio con una scia che la stanza di oggi lula uru stai presenti in la danza. Si si sta via lula uru con tu cadeni e ti pizzica l'uculo. C'è cinca credi a sta storia cinoni di nonni della punta uno con tante emozioni. Si si sta via lula uru con tu cadeni e ti pizzica l'uculo. C'è cinca credi a sta storia cinoni di nonni della punta uno con tante emozioni. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha